caspì di Barbaro, del Piemonte orientale, e si prepara Clara Saladino. Buongiorno a tutti. Allora, nel congresso scorso del 28 a Novara mi sono dimenticato due o tre punti che vengo a precisare. Allora, la differenza tra, e questo mi interessa tantissimo capire come, cosa ne pensiate, tra politici e politicante, cosa cambia? Uno che fa politica e il politicante, perché si mette in politica? Il politico fa, lavora per il suo territorio, il politicante va per prendere il suo stipendio, per rubare soldi nostri, per rubare soldi nostri. Ma il punto è, dopo la prima legislatura che dura 5 anni se non erro, questi, anche se dopo non vengono più eletti, hanno sempre il suo vitalizio, che equivale a minimo 3.000 euro al mese. Un pensionato deve lavorare per 42 anni e 10 mesi attualmente per andare a prendere 1.300-1.400 euro. Allora, cosa c'è che non va? Che cosa c'è che non va? Allora, questa gente vogliono andare, questi politici vogliono andare in pensione, che lavorano anche loro per 42 anni e 10 mesi. Anche loro. Allora, le leggi loro li fanno, ma li fanno per andare a finire che hanno un privilegio, sono privilegiati. Poi la domanda è, i pensionati, allora io faccio parte a Omegna, sono all'accoglienza, e l'accoglienza per quanto mi riguarda è importantissimo. E vabbè, si vede che non gli interessa, allora faccio parte a Omegna, la mia presenza lunedì mattina e mercoledì mattina, ma vi dico ragazzi, a me mi viene da piangere quando vedo giovani dai 24, 30, 35, devo fare la domanda di disoccupazione, gli dai i documenti e allora rimane un attimino scioccato. Se questo non lavora, che chiede la disoccupazione, a pagare i soldi all'INPS, i contributi, chi li paga? I pensionati vanno sempre, l'INPS va, non entrano i soldi, non ti pago, no, ma INPS, ditemi se sbaglio, se qualcuno può dirmelo, INPS è uguale a Stato, ok? Allora, se non ci sono i soldi, non vi pago, andiamo. È la cosa che non va bene così, è una cosa che non va bene. E per quanto riguarda questa accoglienza, allora io ritengo che sia, siccome ho lavorato per quasi 40 anni, 39 anni qualcosa nell'edilizia, quando si inizia a costruire una casa si fanno i fondamenti e si fa la base come Dio comanda, perché se io faccio una base solida, allora costruisco una casa che è solida. Se all'accoglienza noi facciamo una base di sindacato, noi trasmettiamo ai nostri utenti che vengono tutti gli input, che ecco, chiamiamoli input, che le servono, noi credo che, ne sono più che convinto, che l'utente porta, è come una macchia d'olio, una goccia d'olio, ne metti una, si allarga poco, ne metti due, si allarga di più. Per cui porta utenza e naturalmente noi si può crescere come pensionati, come qualunque altra cosa. Però per quanto riguarda i giovani, che naturalmente, io credo, l'ho avuto lì, nelle scuole, a partire dalla seconda o terza elementare, non sarebbe meglio discuterne con i responsabili di scuola e farli e insegnargli a questi bambini come vogliono, no, scelgono loro i mestieri, uno dei mestieri che vogliono è un'infarinatura, cominciare già da piccoli, che è quello che le piace costruire, a quello che le piace fare qualunque altra cosa, ma comunque imparare da piccoli. Però guardate una cosa, che c'è già uno Stato che lo fa, i bambini, i scolari, ecco, fare i compiti a scuola, praticamente tutto quello che l'insegnante le insegna, loro devono fare i compiti a scuola, a casa niente compiti. Perché è come nel tragitto che vado a casa io spengo e poi riaccendo, mi dimentico quello che... Allora sarebbe meglio che a mente calda questi ragazzi, secondo il mio punto di vista, vedano meglio, cioè imparano meglio, molto meglio. E l'ultima cosa che voglio dire è che sono contentissimo di far parte di questa federazione dal mio lontano 78 e che naturalmente continuerò sempre ad essere un prima da attivista, con il mio lavoro che si partiva da Arona, si andava a finire a Cannobbio, poi ritorna indietro, prendi la macchina e vai a Omegna a fare la presenza, e facevo la maratona. E più di una volta abbiamo rischiato di prendere quei verbaloni, la ditta fa, eh no, ma se prendi il verbale te lo paghi tu, ma io devo essere lì per le 6:30, insomma. E c'era sempre quel io vi giuro ragazzi, vi dico ragazzi, perché siamo tutti ragazzi, mi piace, mi piace, mi è sempre piaciuto praticamente fare la presenza, stare in mezzo alla gente, perché parlando, discutendo, si cresce sempre, si cresce come persona e come sindacato. Grazie.